9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 22 di settembre, una giornata, una puntata che dedichiamo alla giornata politica perché siamo in attesa del voto stamane a Montecitorio, voto a scrutinio segreto sulla richiesta di arresto per l'onorevole Milanese. Trovate su ogni quotidiano le interpretazioni di questa vicenda. Nel frattempo siamo all'indomani di un nuovo downgrading, questa volta come preannunciato dopo l'abbassamento del giudizio sulla solvibilità del debito sovrano. Immediatamente, come vedete, ne segue la conseguenza, cioè l'abbassamento sulla solvibilità delle banche, perché non abbiamo ancora separato, dopo ad anni dalla crisi di Lehman Brothers, il problema dei debiti sovrani da quello bancario, e quindi diventa la prima trincea incandescente per la tenuta dell'economia, perché le banche incorporano integralmente, oggi come oggi, il differenziale sul premio a rischio italiano del debito pubblico rispetto a quello della Germania, e quindi subito dopo le banche vanno in difficoltà per la provvista breve di capitale, subito dopo si accentuano le difficoltà per la loro bassa capitalizzazione, e quindi 7 banche ieri downgradate, il mercato oggi andrà male. Attesa per il Consiglio dei Ministri di oggi, attesa anche per il seguito della situazione che si è creata dopo che Confindustria ha ufficialmente, per bocca del suo presidente Marcegaglia e dopo riunioni nazionali, sancito la linea per la quale ci sono oramai poche ore per nuovi provvedimenti, altrimenti il governo è meglio che si faccia da parte. Ma sui giornali trovate una serie di posizioni assunte ieri dal Presidente del Consiglio, che si è recato al Quirinale per illustrare la sua linea. Non me ne vado assolutamente, anzi vado avanti nel chiarimento giudiziario, saranno i pubblici ministeri che dovranno scusarsi. Il titolo della Stampa, il quotidiano diretto da Mario Calabresi, nel dare conto di questo colloquio al Quirinale è, tra virgolette, Presidente tutto sotto controllo, chiuse virgolette, il Premier sconcerta il Colle, questo è il titolo della Stampa. C'è poi il versante della Lega, molti quotidiani dedicano diversi articoli alla posizione del leader leghista che ha rincuorato il Presidente del Consiglio. Bossi ha deciso, salva Milanese e il governo, questo è il titolo sempre dalla Stampa a pagina 4. Il senatore, due punti virgolette, non voto per far cadere Berlusconi, Maroni è d'accordo, chiuse virgolette. E anche qui articoli separati su tutti i quotidiani, dal Corriere della Sera in avanti, che danno conto della posizione del Ministro dell'Interno, che ieri ha dichiarato esplicitamente: mi atterrò sul voto, segnale anche per i parlamentari nel gruppo che fanno riferimento alla posizione del Ministro dell'Interno come possibile leader futuro della Lega, dicendo mi atterrò alla posizione della Lega, il che farebbe pensare dunque che nello scrutinio segreto di questa mattina non ci siano sorprese alle viste. Ma sulla tenuta invece a scrutinio segreto del voto sulla custodia cautelare o meno richiesta per l'onorevole Milanese si misura la tenuta del governo. Su molti giornali trovate articoli dedicati all'ipotesi di cui si parlerebbe a voce bassa all'interno dei gruppi PDL e della Lega, cioè di un governo Alfano-Maroni come ipotesi per avverare la richiesta che ieri il Corriere della Sera in prima pagina ha fatto al Presidente del Consiglio, e cioè quello di fare un passo indietro di una specie di soluzione spagnola, insomma la Zapatero, ne abbiamo già parlato, soluzione che oggi direttori del centrodestra, di quotidiani del centrodestra, liquidano in un articolo che trovate sul Foglio. Feltri la definisce una chiacchierata da te fatta da Sergio Romano, la richiesta di ieri del Corriere della Sera, e dice Sergio Romano non ha capito, non ha letto evidentemente la nota del Standard & Poor's con cui si è effettuato il downgrading dell'Italia. Se l'avesse letta, Sergio Romano, dice Vittorio Feltri, capirebbe che non è Berlusconi che se ne deve andare, sono i veti corporativi che impediscono al governo di attuare le sue manovre, a cominciare da quelle di Confindustria. I quotidiani del centrodestra sono molto critici sulla posizione assunta da Confindustria, personalizzano su Emma Marcegaglia. Il Giornale si chiede quando Emma Marcegaglia la finirà di andare sugli aerei a Verona, e si dimenticano al Giornale che non sono aerei di Stato come quelli ovviamente dei signori componenti del governo, evidentemente fanno un po' di confusione al Giornale, ma non sono queste le polemiche di cui c'è bisogno. C'è un'interpretazione anche molto negativa sui quotidiani del centrodestra della firma che è avvenuta ieri tra Confindustria e le associazioni sindacali per ribadire l'intesa del 28 giugno sulle condizioni di validità delle intese aziendali. La si interpreta contro l'articolo 8 della manovra e invece non è così. Quindi la giornata politica è carica di qualche tensione. Cominciamo a capire con il primo dei nostri ospiti che cosa davvero può succedere intorno al voto. Onorevole Marco Milanese, trovate sul Corriere della Sera un articolo un po' malizioso sulla posizione dell'onorevole Milanese, che ieri si è autosospeso dal PDL, e la frase che viene attribuita, un boatos del transatlantico, è quella che l'onorevole Milanese avrebbe pronunciato dicendo: se vado io in carcere non resterò a lungo da solo. Invece la stampa preferisce riportare le dichiarazioni del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che dice: si illude chi pensa che farà restare Milanese voglia dire far dimettere me. Io ricordo a tutti che le accuse all'ex collaboratore del ministro Tremonti sono sostanzialmente tre. Una è la potenziale corruzione, cioè dei costosi regali per le nomine nelle società controllate dal Ministero dell'Economia. La seconda accusa è la rivelazione di segreto d'ufficio, perché deputato al PDL avrebbe ricevuto denaro in cambio di notizie segrete della Guardia di Finanza. E la terza è l'associazione per delinquere, un'inchiesta sulla P4, quella per cui poi è stata data già la carcerazione preventiva per l'onorevole Papa, e in questo caso l'ex ufficiale della Guardia di Finanza è coinvolto come persona informata sui fatti. Molti in Parlamento sostengono che bisogna assolutamente respingere, perché già la rottura avvenuta sull'onorevole Papa è una rottura pericolosa, è la prima custodia cautelare autorizzata, quella dell'onorevole Papa, per reati non di sangue l'intera storia della Repubblica. Altri osservano però che la gravità delle ipotesi di reato avanzate per l'onorevole Papa, per cui pure la custodia cautelare è stata autorizzata, è molto molto meno seria di quella delle accuse che sono invece elevate nei confronti dell'onorevole Milanese. Allora abbiamo con noi innanzitutto, per pochi minuti, io lo ringrazio, Francesco Speroni, che è eurodeputato della Lega Nord, e nel salutarlo e ringraziarlo chiedo all'onorevole Speroni, sia pure dal suo osservatorio, visto che è un eurodeputato, non è membro del Parlamento italiano, però una sua osservazione su tre punti. Primo, la tenuta della Lega su questo voto e l'importanza che ha questo voto sul regolo milanese e rispetto al rapporto storico che nella Lega si ha con Tremonti. Secondo, una sua valutazione intorno a quello che si legge oggi sui giornali, un governo Alfano Maroni. È possibile che esista un piano B della Lega, malgrado le parole di Bossi molto precise e decise pronunciate domenica, che sono avanti con Berlusconi, anche se sul 2013 non è chiaro se fino al 2013, ma insomma per il momento avanti con Berlusconi. Terzo, invece, di darci anche una sua interpretazione su questa ripresa dell'obiettivo o della possibilità secessionista, che proprio domenica è stata la novità che è venuta alla fine della festa padana e del rituale dell'ampolla del Po. Su queste tre cose, onorevole Speroni, a lei la parola, grazie e buongiorno ancora. Buongiorno, e volevo cominciare dal punto centrale, non perché sia più importante, ma perché la risposta è molto immediata. Sono con quello che dice Bossi, quindi il governo va avanti, la Lega l'appoggia, non ci sono piani B o C o altro. Per quanto riguarda Milanese, io sono veramente stupito, anche se seguo la politica italiana, ma io sono stato spesse volte relatore al Parlamento europeo proprio sulle questioni di immunità, e lì non c'è mai stata una valenza politica, cioè si valuta se le richieste di autorizzazione a procedere, all'arresto o altro, lì varia, perché a seconda dei 27 paesi ci sono regole diverse, ma non si è mai avuta una connotazione politica per un voto riguardante l'immunità. Qui in Italia c'è una sensibilità diversa, ma allora cerco di essere neutrale, proprio perché, come dice, il mio osservatorio è esterno, e dal punto di vista processuale che Milanese vada in prigione oppure no, penso non abbia nessuna rilevanza, perché ormai le indagini sono abbastanza avanzate, non mi sembra che ci sia il pericolo di fuga, non mi sembra che si possa avere la reiterazione del reato, perché ormai conoscono tutti che è Milanese, non ha più quell'influenza che aveva prima. Quanto all'inquinamento delle prove, devo dire, se mai ci fosse stato qualcosa da inquinare, ha avuto tutto il tempo di inquinarlo, quindi le misure di custodia cautelare secondo me non sussistono, ma questo parlo forse più da avvocato che da politico. E politicamente devo dire questo: l'istituto dell'immunità, che è stato voluto dai padri costituenti, non è un'invenzione della casta, ma serve in contrapposizione attenzione, per così dire, a due esigenze: l'esigenza di giustizia e l'esigenza di tutela dell'integrità e della funzione parlamentare, perché è chiaro, se un parlamentare viene messo in prigione e, come nel caso di Papa, non gli viene nemmeno concesso di partecipare ai lavori parlamentari, come invece viene concesso a qualche altro detenuto di fare qualche attività, beh, a questo punto il Parlamento subirebbe una lesione. Io ritengo, proprio perché le indagini ormai sono in stadio avanzato, che sia opportuno tutelare l'integrità, le prerogative, le guarentigie del Parlamento. Poi naturalmente sono le forze politiche italiane presenti alla Camera che devono prendere la decisione. La terza domanda era sulla... La terza domanda era su questa ripresa dell'obiettivo secessione. Sì. Allora, diciamo che nella Lega, in qualche frangia della Lega, di cui ammetto di far parte, c'è ancora l'idea che per risolvere i problemi non solo della Padania ma di tutta l'Italia sia meglio una secessione morbida, consensuale, come è avvenuto tra Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca. Altre secessioni ci sono state molto recentemente, proprio di questo mese o del mese scorso, la secessione del Sudan del Sud, poco tempo fa c'è stata quella di Timor-Est, quindi non è una parola che il diritto internazionale esclude. Io non la vedo come tabù, giustamente Napolitano, garante dell'unità nazionale, ha le sue riserve, però ritengo che in democrazia ognuno possa avere la libertà di esprimersi e di desiderare quantomeno quello che ritiene più opportuno. Poi naturalmente sarà da valutare se ci sono le condizioni politiche per sostenere questa idea oppure no, e soprattutto vedere se la gente lo vuole o non lo vuole. Ripeto, penso sia una questione di democrazia, di là da quello che dice la Costituzione, che è sempre modificabile, di là da quelle che sono le posizioni individuali e politiche, in democrazia è il popolo che decide. Posso farle un'osservazione? Io ricordo che la campagna elettorale che della Lega, che fu più contrassegnata nel tempo recente dai riferimenti alla possibilità della secessione, fu quella del 96. Il tempo era più o meno quello successivo alla rottura con Berlusconi del 94. Direi di no. Perché? Mi spiace contraddirla, ma la secessione venne lanciata nell'autunno del 96, quindi dopo le elezioni, non prima. Questo è vero, però questo è vero perché, insomma, quello che dicevo io è che avveniva in coincidenza del fatto che c'era una grande incertezza, e l'incertezza non era solo della Lega, era un'incertezza di tutti gli osservatori italiani, sul fatto se l'Italia fosse in condizioni di entrare o meno fin dall'inizio nell'euro. Lo stesso Prodi era dell'idea che insieme alla Spagna per un po' stavamo fuori, rimanevamo in una facile oscillazione stretta, ma insomma eravamo in grado forse di spalmare meglio gli sforzi necessari di risanamento per entrare nell'euro. Poi la Spagna disse: entriamo fin dal primo momento, finì nell'eurotassa di Prodi, entrammo nell'euro, e all'epoca io avevo l'impressione che, per così dire, la concomitanza del fatto che l'Italia non veniva considerata in grado di entrare nell'euro fin dall'inizio fosse uno degli argomenti in più della Lega al suo arco, perché tutte le volte che il processo europeo fa un passo indietro o noi restiamo indietro, è inevitabile che il divario tra nord e sud costituisca un problema non solo per noi, ma anche in Europa. A oggi che c'è il rischio che l'euro salti, come in Belgio, anche in Italia si porrebbe il problema di separazioni. C'è o non c'è questo aspetto anche di drammatizzazione internazionale che dà un senso in più a questa cosa della possibilità della secessione? Perché questo gli osservatori italiani non lo notano mai, ma secondo me è un elemento che ha la sua oggettività. Ma c'è nelle vostre osservazioni, in altre parole, per la Lega, il cataclisma, se salta l'euro, nessuno se lo può augurare, ma se avvenisse il semi-default della Grecia e poi l'aggravamento della condizione italiana, perché siamo ai downgrading successivi oramai, nella realtà dei fatti il cataclisma darebbe più rilievo, secondo lei, alle istanze di separazione, perché i forti vanno con i forti e i deboli con i deboli, oppure no? Beh, ovviamente sì, perché direi che non posso fare altro che confermare quell'analisi acuta che ho appena fatto. Quindi a un certo punto noi non è che guardiamo, almeno io personalmente guardo tanti ideali eccetera, io sono un tipo concreto, se si deve stare insieme si deve stare insieme perché conviene. Quando uno fa società con un altro, sta lì se gli conviene. Se a un certo punto quell'altro guadagna e lui ci perde, è opportuno sciogliere la società. Mi sembra che siamo in questa condizione. È chiaro che di solito quando uno fa società non è costretto, mentre invece l'Unità d'Italia è stata fatta a mano armata con gli eserciti, le alleanze francesi, eccetera, eccetera, quindi non è stata una cosa volontaria. Però c'è, ma una cosa che c'è non è detto che debba esserci per l'eternità. Bisogna vedere appunto se conviene a tutte e due le parti dell'Italia, le identifichiamo con nord e sud per semplificare, bisogna vedere se conviene stare insieme oppure no. E questa crisi economica, secondo me, come giustamente lei ha detto, fa risaltare che ci sono queste grosse differenze che vengono accentuate proprio dai problemi legati all'euro, legati ai problemi internazionali di economia e di finanza. Quindi questo indubbiamente può essere un fattore rilevante in questa valutazione, che ripeto, non è una posizione politica, è semplicemente un'analisi di una situazione di fatto. Un'ultima domanda, poi la lasciamo, onorevole Speroni. Anche secondo lei il downgrading Standard & Poor's, quello delle banche che è avvenuto ieri, è più colpa dei media che di altro, di chi parla male del governo, come ha detto l'onorevole Berlusconi, o insomma ci sono dei problemi reali? E il fatto anche che gli imprenditori prendano oramai queste distanze ha ragioni reali nell'andamento dell'economia e dei mercati? Lei che pensa? Premesso che io non faccio l'economista, ma comunque seguendo la politica qualcosa posso pensare, posso dire, intanto c'è questo fatto delle agenzie che non so fino a che punto siano credibili, perché Lehman Brothers mi pare avesse addirittura 3A prima del fallimento, quindi uno che un'agenzia che mi dice questa è una società del tutto affidabile e la società pochi giorni dopo fallisce addirittura, non è che va in crisi, va in difficoltà o roba del genere, ma proprio chiude, questo mi dimostra che non sempre queste agenzie di valutazione fanno delle valutazioni corrette, quindi già questo è una cosa da tenere ben presente. Secondo, hanno detto, Standard & Poor's, perché le altre ancora non si sono pronunciate, ha detto che insomma non è solo il governo italiano ma anche 7 banche italiane più la Fiat, quindi è una questione che riguarda l'Italia in generale, per cui se, ammesso che ci siano delle colpe, ammesso che non sia proprio una valutazione che deriva dal comportamento italiano in una crisi internazionale, perché ripeto anche gli Stati Uniti sono stati degradati, quindi non è solo una questione italiana, ma proprio il fatto che non è solo il governo ad essere colpito da questo degrado, ma l'azienda più importante d'Italia che è la Fiat, 7 banche tra cui le più importanti, dimostra che la situazione è critica non solo dal punto di vista della politica del governo ma di tutto il sistema. Ecco, mi sembra già un po' diversa che dire che è colpa dei media. Grazie all'onorevole Francesco Speroni passiamo adesso a uno degli più acuti osservatori da anni dall'interno del palazzo, di cosa avviene nel palazzo. Sto parlando di Francesco Verderami, che saluto e ringrazio, giornalista del Corriere della Sera, al quale prego di dirci le sue previsioni sull'andamento della giornata. Scrutinio segreto, terrà il fronte del no alle richieste della procura per la custodia cautelare dell'onorevole Milanese, oppure prevale, a leggere i giornali si direbbe di sì, il fronte delle spaccature per ragioni diverse all'interno del PDL, nei rapporti tra PDL e Lega? Che pensi? Intanto buongiorno, poi praticamente comincio a farmi fare i pronostici, che come quando prima delle partite di calcio chiedono agli esperti come finirà, quale sarà il risultato finale. Io penso che oggi il voto correrà sul filo, ma da quello che si avverte la valutazione che viene fatta all'interno del palazzo è che la richiesta di arresto per l'onorevole Milanese venga respinta in questo caso. Per tutta una serie di valutazioni che riguardano la tenuta della maggioranza, come diceva ieri Bossi, e il fatto che all'interno della Lega, nonostante vi sia una evidente tensione interna, il rischio è quello, come dire, di giocare su una questione che potrebbe compromettere tutto l'intero disegno del governo e quindi del partito di maggioranza. E poi anche alcune riflessioni che ho avvertito all'interno del centro-sinistra, ecco, del partito di centro-sinistra. Tu dici che Maroni avrebbe spiegato a Bersani, insomma, non potete continuare a chiedere a Berlusconi passo indietro, perché è come chiedere di ritirarsi sotto il lancio delle monetine. Sì, E a questo punto sorge spontanea, direbbe qualcuno nella famosa trasmissione, la domanda: ma non è che continuate a insistere perché volete che Berlusconi resti lì? Perché altrimenti cambia completamente il quadro politico. E cambiando completamente il quadro politico, liberandosi le energie, probabilmente saltando anche i partiti, così come finora l'abbiamo visto nella Seconda Repubblica, la struttura di coalizione che oggi si vede si intravede, cioè quella dell'asse che tra Partito Democratico, Sinistra e Libertà e Italia dei Valori potrebbe saltare per aria, ecco, perché se salta Berlusconi l'analisi che si fa è che salta l'intero sistema, cioè che i vincoli di appartenenza che oggi ci sono tra all'interno dei partiti e tra i partiti cambierebbe inevitabilmente. Quindi e comunque il voto sul Milanese, che io ritengo non dovrebbe appunto fornire sorprese sotto questo aspetto, anche se il voto è sul, come dire, al limite, anche se in questo voto a scrutinio segreto si scaricano tensioni che riguardano il ministro dell'economia, che riguardano il presidente del consiglio, che riguardano malumori personali, prospettive non realizzate, allora ci potrebbero essere queste tensioni, ma ritengo che insomma alla fine i parlamentari non seguino il ramo dove sono seduti. Ecco, quindi oramai Berlusconi identificato con la tenuta del sistema, non solo della legislatura, chiedo a inevitabilmente chiedo a Verderami anche di riflettere, nel senso che adesso andiamo in pubblicità, quando torniamo automaticamente do la parola, come bisogna leggere questa espressione di Berlusconi, i PM dovranno scusarsi, è una butade o c'è qualcosa sotto, c'è una strategia di riprendere in mano la riforma della giustizia, è una exit strategy possibile, e il Quirinale che ne pensa di tutte queste cose? Allora Verderami, il Premier ci dice che i PM gli dovranno chiedere scusa, Di Pietro gli replica: guarda che se non te ne vai scappa al morto, cosa che mi sembra anche quella una maniera un po' difficile di dire vattene davvero, non si costruisce politicamente così una via all'exit strategy di Berlusconi, però magari da dentro si capisce meglio. Tu che pensi? Ma scagli la prima pietra che è senza peccato sul fronte diciamo del grande scontro della giustizia, quello che ha tenuto banco tiene banco ormai dal 1992. Io penso che gli errori di Berlusconi siano evidenti sotto gli occhi di tutti, l'imprudenza che si trasforma in impudenza nei rapporti con persone dalle quali probabilmente avrebbe dovuto tenere una certa distanza, e tuttavia si nota uno strapotere dell'ordine giudiziario che quasi si ride, senza quasi, di ogni altro potere, che scavalca le regole del gioco e che probabilmente tracima oltre i confini che il Consiglio Superiore della Magistratura e il Presidente che di questo organo costituzionale fa parte non riescono più, secondo me, a contenere. Tutto questo rende l'Italia un paese veramente di terzo ordine sotto il profilo proprio della gestione della giustizia, o lo fa apparire così all'esterno, e certamente l'immagine che offriamo è devastante. Non credo che i magistrati chiederanno scusa a Berlusconi, si spera che non ci scappi il morto, così non si costruisce nulla. Io penso che il downgrading di Standard & Poor's sia da dare non tanto all'economia italiana quanto alla politica italiana, così come viene gestita dai suoi attori. E in questo senso il paese è stanco, in questo senso il paese avrebbe bisogno di un ricambio generazionale. C'è un piccolo problema: non c'è il sostituto in panchina, cioè ce ne rendiamo conto, sì o no? Perché se ci fosse un sostituto, come dire, a mio avviso sarebbe già entrato in campo, non so che ne pensi tu, ecco, non vorrei trasformarmi da intervistato. No, io ti rispondo. Nel frattempo dobbiamo informare i nostri ascoltatori che lo spread è ripartito ed è risalito sopra quota 400. Io apprezzo particolarmente appunto che Francesco Verderami ci abbia richiamato a quello che la politica considera quasi una sovrastruttura, cioè la crisi dei mercati e le ragioni oggettive per cui l'Italia è di nuovo al centro dei sospetti, della sua bassa crescita, l'elevato debito pubblico, la credibilità di una roba fatta con tante tasse in più, tutto questo. Magari anche un po' un gioco, scusami se ti interrompo, magari un giochino un po' perverso che si era venuto a creare anche all'interno dell'Europa, magari qualcuno che ci voleva, tutto quello che vuoi, ci voleva però scaricare alla fine, provando a scaricarci, penso per esempio alla Germania, ma penso per esempio anche alla Francia, si è trovato con le mani, diciamo, rimaste dentro il frullatore. Ecco. Perfetto, col cerino in mano, e adesso abbiamo appunto la fiamma nella Santa Barbara col pericolo di esplosione. Detto tutto questo, la mia opinione, quella che dico agli amici del gruppo parlamentare del PDL che mi dicono: ma tu cosa dici? Io dico loro che se non fanno un passo come PDL di distinzione rispetto a Berlusconi, che ovviamente vuole restare, non lo fanno. Se non lo fanno, non si autolegittimano come PDL che continuerà ad avere, sia per l'exit di questa legislatura sia per il dopo, un ruolo di rappresentanza politica. La mia opinione è questa. Dicono: ma come si fa a spiegare a Berlusconi che bisogna poi farlo questo passo avanti? Dice: ma vi deve autorizzare lui? È possibile mai che il PDL sia al di sotto di quello che riuscì a fare il Gran Consiglio del Fascismo con Dino Grandi nei confronti di Mussolini? È questo il paragone storico che vi devo evocare? Ecco, questo è il tono con cui io mi rivolgo agli amici parlamentari del PDL, che naturalmente, quando gli dico che persino il Gran Consiglio del Fascismo ebbe il coraggio, di fronte a un'Italia in ginocchio, di prendere una decisione mettendo il Duce di fronte alla situazione, mi dicono: ma non siamo mica in quelle condizioni. Dico: certo, non siamo di fronte alla guerra combattuta, siamo di fronte alla guerra dei mercati, ma l'Italia rischia di andare a gambe all'aria. Quando gli dico: guardate che tutti stanno incorporando oggi un aumento di 150-200 punti sul costo del mutuo perché la banca glielo trasla, dicono: vabbè, questo è esagerato. Io gli dico: perché voi i mutui non li contraete come cittadini normali? Questo è ciò che arriva alla gente, e la gente ha ragione a dare colpa a voi. Allora, Francesco, ti tengo lì un secondo perché c'è un altro collega, Francesco Bei, invece di Repubblica, che oggi insieme a Umberto Rossi ha lanciato un'ipotesi di interpretazione dell'ultimo patto tra Silvio Berlusconi e Umberto Bossi. Cioè, il patto sarebbe quello di stare vicini, sì, ma per poco, perché il titolo di Repubblica dell'articolo di Francesco Bei di oggi è: se vuoi mi dimetto subito, avrebbe detto Berlusconi a Bossi, e Bossi gli ha detto: no, però insomma ne riparliamo a gennaio, non è che andiamo avanti in queste condizioni chissà quanto. Quindi grazie Francesco Bei per essere con noi, ci dai la chiave Buongiorno. Per capire se e perché è stato così l'incontro? Sì, diciamo, quello che risulta a noi, ecco, è che l'abbraccio tra Bossi e Berlusconi questa volta è stato meno caloroso del solito, e lo dimostra anche quella frase un po' sibillina di Bossi quando ieri i giornalisti gli hanno chiesto: ma insomma il governo va avanti fino al 2013, lui ha detto: boh, vediamo, questo non ve lo dico, insomma non è sembrato così sicuro. L'idea appunto, perché gennaio? Gennaio perché intanto si saprà se la Corte Costituzionale avrà dato il via libera al referendum elettorale, che diciamo pesa un po' come una spada di Damocle sul futuro della legislatura, e poi a gennaio anche perché se non sbaglio a fine novembre è fissata il termine della proroga per l'attuazione dei decreti sul federalismo fiscale, e chiaramente la Lega, se vuole andare ad elezioni questa volta davvero, non può accampare scuse, si deve presentare con qualcosa in mano, per cui diciamo almeno l'iter del federalismo fiscale lo deve aver portato a casa. A quel punto, se sarà il momento giusto per andare al voto in primavera, a gennaio ci sarà la crisi di governo. Questo è un po' lo scenario per cui Bossi ieri è restato dietro al cespuglio, come dice lui. Poi volevo dire una cosa riguardo a quello che stavi dicendo prima, Oscar, che è il fatto che il PDL appunto non trovi il coraggio di segnare un momento di discontinuità. È un po' come quelli che chiedono il permesso, no? Fanno la rivoluzione chiedendo il permesso al re, insomma è un po' curioso. Io penso che il vero atto di nascita del PDL sarebbe proprio quello, cioè tagliare il cordone ombelicale con Berlusconi, con il padre fondatore, e avviarsi verso appunto la ricostruzione del centrodestra come casa comune dei moderati, magari aprendo anche all'UDC. Però vediamo se Alfano, verso il quale tutti ripongono grandi aspettative, ci riserva questo. Vediamo iniziamo a vedere alcuni flash da parte dei nostri ascoltatori. Innanzitutto Valdimiro dalla provincia di Arezzo, è un nome così particolare che mi fa pensare che sia un nostro ascoltatore apprezzato, di quelli con cui dialoghiamo per mail ogni giorno, ma magari non è così e si tratta di una omonimia, anche se di Valdimiro non ce ne sono molti. Prego Valdimiro. Buongiorno dottor Giannino, ha indovinato. Io sono d'accordo con quanto ha detto lei poco fa e penso anche, per aggiungere qualcosa, che il voto di oggi non sia solo su Milanese, ma sia uno degli ultimi atti della battaglia che c'è tra la politica e la giustizia. Mi spiego. Dobbiamo decidere, oggi devono decidere e stanno decidendo se l'Italia sarà ancora una democrazia fondata sulla separazione dei poteri o seppure i PM devono soggiacere in qualche modo al potere esecutivo. Questo è una chiave di lettura anche del voto di oggi. Quando Berlusconi parla che i PM mi dovranno chiedere scusa, probabilmente c'è una strada che lui ha in mente. Questo è un voto molto importante e questo sarà una ricaduta importante per sapere se la nostra democrazia regge oppure no. Va bene, questo tra qualche ora vedremo. Temo che però le considerazioni svolte da Verderami e da Bay intorno al fatto tenuta legislatura o meno e altre considerazioni politiche, più che questo punto di fondo che lei richiamava Valdimiro, siano al centro delle vere considerazioni. Il problema è se solo nel segreto dell'urna qualcuno del PDL si prende il coraggio attraverso quel voto, un voto che dice Milanese è arrestato, per esprimere un distacco invece che con un'iniziativa politica, perché pubblicamente non lo fanno nei confronti di Berlusconi, dicono che è tutta colpa dei media, che c'è una cospirazione dei poteri anglofoni contro i mercati italiani, delle cose francamente risibili, cioè bisogna avere anche un bel fegato a dirlo in pubblico. Io ho assistito a membri del governo che non avrei mai sospettato rilasciare delle dichiarazioni che poi mi hanno indotto a chiamarli per telefono e dire: ma ti rendi conto che perdi la faccia anche di fronte ai tuoi figli, non dico ai tuoi elettori? Dice: ma questo noi dobbiamo dire, ma come questo? C'è una cospirazione dei poteri anglofoni, ma come potete esservi ridotti a questo? Fate ridere. Ecco, se forse sono nel segreto dell'urna, Valdimiro, sulle condizioni a restare o meno, si pigliano quel coraggio politico che altrimenti non hanno e lo fanno in una maniera per me impropria, ti dirò con la verità, perché bisognerebbe stare solo sulla questione che hai detto tu e sulle questioni delle carte relative all'onorevole Milanese, di fronte cioè a una richiesta che bisogna considerare appropriata o meno per le tre questioni che nel nostro ordinamento richiedono la custodia cautelare, se ce ne sono gli estremi oppure no. Allora Pietro dalla provincia di Cremona, rapidamente, che impressione hai? Pietro, buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. La mia impressione è che sabato e domenica e fanno i leghisti e poi vanno a Roma a difendere i ladroni, poi quando sono in cacca prendono in ballo la secessione. A me mi viene un dubbio grandissimo che Berlusconi abbia pagato i debiti a Bossi della Banca del Nord e nessun giornalista ha il coraggio di dire. Io ho questa impressione qua, perché non è possibile, perché quando un'azienda va male si mette in amministrazione controllata. Grazie. Grazie a te Pietro. C'è chi sostiene che ci sia stata una cosa di questo genere. C'è un libro del mio amico Facco del Movimento Libertario che dà un'interpretazione esattamente in questa chiave qua, cioè del fatto che Berlusconi ha fatto un'opa, se l'è comprata in realtà la Lega, e che al momento di difficoltà questo elemento rientra sempre come criterio di riallineamento della Lega a Berlusconi. Io penso che alla fine poi la politica è quella che induce a far prendere le posizioni a distanza anche di tanti anni da quelle vicende, e c'è nella Lega ciò che vediamo evidentemente, se abbiamo buoni occhi per vedere, c'è chi pensa al futuro e c'è chi pensa invece a una strategia di breve periodo. Chi pensa al futuro guarda verso Maroni dà una botta, poi si ritira sotto la superficie, ne dà un'altra, poi dice che si allinea, vediamo. Giovanni da Milano, prego Giovanni, rapido anche tu. Sì, io stavo facendo una riflessione in questo senso. Buongiorno innanzitutto. Se la magistratura e la sinistra avessero fatto governare Berlusconi senza continuare a interromperlo con processi, accuse, eccetera, eccetera, eccetera, non è il caso che forse ce l'eravamo già tolto dalle scatole qualche anno fa, visto l'incapacità, malgrado tutto, di riuscire a fare qualche cosa di nuovo veramente? Ce ne saremmo accorti tutti prima. E chi lo sa, continuarlo a attaccarlo forse è diventato anche un boomerang, perché poi alla fine la gente l'ha anche votato perché gli sembrava quasi che fosse proprio un attacco orizzontale contro di lui. Chi lo sa, Giovanni? Luigi da Como che pensa invece, Luigi? Buongiorno Giannino, scusi. Buongiorno Giannino, a lei e ai suoi interlocutori. Volevo solo dire, per quanto riguarda la questione di Alfano, non credo che sia il vero continuatore del PDL, perché è una propaggine di Berlusconi. E per quanto riguarda il sostituto di Berlusconi, se non passiamo da un governo tecnico o comunque simile per una nuova legge elettorale, Berlusconi rimarrà congelato e il paese finirà in malora con lui. Grazie. Una previsione non proprio allegra. Allora andiamo a valutare nell'opinione di Verderami, nell'opinione di Bay, il ruolo che può avere il Quirinale nelle condizioni che si creano con il voto di oggi. Vedremo come andrà Montecitorio, ma insomma c'è chi pensa che il Quirinale sia già arrivato alla soglia estrema di ciò che la Costituzione consente al garante della Costituzione di fare e che non possa avere altre carte o altre frecce al suo arco per indurre la situazione politica a sbloccarsi. C'è invece chi ritiene no, di fronte a downgrading internazionale, uno spread che può arrivare a quota 500, a banche che a quel punto vanno in crisi seria, e di fronte a un'iniziativa per esempio straordinaria delle parti sociali che vanno al Quirinale a dire guarda, in qualche maniera devi intervenire per potere di emergenza e far fare al governo o le cose necessarie o cambiare il governo, anche se ha la maggioranza in Parlamento, c'è chi sostiene che possa avere anche questa possibilità di interpretazione dei suoi poteri il Presidente della Repubblica. Di fronte a questo bivio, Verderami come la pensa? Che è una follia, è una vera follia. Questo paese ormai è malato di emergenze. Questo paese ormai pensa che è letteralmente impazzito. Non ha mai saputo gestire e saputo vivere nel bipolarismo, ha sempre vissuto nella congestione, per cui chi stava al governo e chi stava all'opposizione comunque si avevano dei rapporti in modo tale che potessero stare entrambi poi fittiziamente al governo e fittiziamente all'opposizione, e che spingere il capo dello Stato oltre i confini quali si è già spinto in molte occasioni, arrivando a torcere in alcuni passaggi la Costituzione formale, è pura follia, perché peraltro il Capo dello Stato in questo senso, rendendosi conto che in alcuni passaggi diciamo la Costituzione è stata travalicata, ha posto un paletto preciso, l'ha posto un paio di settimane fa, dicendo pubblicamente che fin quando c'è in Parlamento una maggioranza numerica lui non può intervenire, perché la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica la possibilità di intervenire solo in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o in caso di crisi di governo, solo in questi due casi. Se noi vogliamo trasformare questa crisi politica in una crisi istituzionale, poi però gli attori di questa crisi, che naturalmente non l'avranno vinta perché il Capo dello Stato in questo senso è stato molto chiaro, dovrebbero assumersi la responsabilità delle conseguenze di questa crisi, perché a forza di dire che serve per un bene superiore, non vorrei che queste persone che appunto pensano così di scalzare Berlusconi rischino poi alla fine di trovarsi con un Berlusconi ancora peggiore rispetto alle aspettative che loro stessi avevano. Non so se sono stato chiaro. Ah, sei stato molto chiaro. Beh, oh, invece, secondo te, e secondo giornale anche cui scrivi, distinguo, perché ovviamente non è che uno interpreta o impersonifica per così il giornale per cui scrive, ha un'opinione sua e un'indipendenza sua. Secondo te, immagine ulteriore per il Quirinale, per altre iniziative, c'è o non c'è di fronte all'avvitarsi della crisi? Ma guarda, io francamente penso che il Capo dello Stato debba fare il Capo dello Stato, non debba supplire ai numeri in Parlamento mancanti dell'opposizione o al ruolo dell'opposizione o delle parti sociali, insomma ognuno faccia il suo mestiere e stiamo tutti più tranquilli, ecco, questa è la mia opinione. Poi certo c'è uno strumento in teoria che ancora il Capo dello Stato non ha attivato. Cioè, ancora un colpo in canna sarebbe quello di un messaggio, esatto. Un messaggio alle Camere, gli è stato chiesto Ma non lo so, insomma, bisogna vedere un po' se l'efficacia pure di questi messaggi. In passato ne sono stati fatti, non mi sembra che sia cambiato che molto. Quindi, va bene, io penso invece che i mercati possono fare la differenza. Vedremo se non sarà così, non me lo auguro. Vi invito tutti a riflettere, cari ascoltatori, sulle parole di Vincenzo Bolcio, il presidente dei piccoli di Confindustria, che dice: ma quale piano della crescita in 10 anni? Ce ne vuole uno in 10 giorni! E questa è una delle amare verità. Vedremo intanto come va il voto oggi su Milanese e intanto è cominciato il Consiglio dei Ministri. Linea Generale Radio, appuntamento a domani.